si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizio. Eccoci qua, è domenica mattina, sono le 8:35 minuti e torniamo noi. Buongiorno ad Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci qua con il buongiorno del weekend di Radio 24. Si può fare, stiamo insieme fino alle 10. 800 24 0024, il numero verde Milano Monterosa. Oggi Carlo? Bruttarello, potrebbe anche un pochino piovere, però non è detto. Molte volte abbiamo iniziato la trasmissione che sembrava bigio e poi lentamente usciva il sole. Anche i tuoi capelli hanno risentito, secondo me, del clima, sono particolarmente in piedi? In piedi stamattina. Questo può essere. Un risveglio trafelato come ogni domenica mattina per tutti noi. 349-238-6666 se volete scriverci e partecipare al gioco. Però per giocare bisogna chiamare, bisogna tirar fuori la voce. E il personaggio della settimana che andiamo cercando questa settimana, questa domenica mattina, ha un indizio, ha una notizia che noi vi comunichiamo tramite questo indizio. Ha fatto qualche cosa di inaspettato. Iniziamo larghi e poi dopo vi daremo degli altri indizi. 800 24 00 24, anche oggi chi indovina per primo si porta a casa i biglietti della mostra di Escher, la bellissima mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano. Parleremo tra poco, cari automobilisti all'ascolto, di una cosa che vi riguarda. State attenti, soprattutto con il telefonino. Non ascoltateci attraverso lo smartphone, direi, perché uno dei problemi è anche quello. Poggiatelo lì, non tenetelo in mano, perché pare che siano delle cause di incidente più importanti. Quindi facciamo attenzione. E quindi partiamo di qua, tra poco. 800 24 00 24. Adesso però, come sempre, un po' di notizie della settimana. Sunday, Monday, happy days. Il Consiglio dei Ministri ha oggi convenuto sulla data del 4 dicembre prossimo del referendum popolare sul testo della legge di revisione costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Oh, c'è stato l'annuncio! Abbiamo data 4 dicembre. Tra l'altro, se ho capito bene, il 4 dicembre è la stessa data nella quale la Corte Costituzionale dovrebbe pronunciarsi sull'Italicum. Ma slitterà, però, già si dice. C'è o no? Questa specie di confluenza di date. Tutto insomma. Accadrà il 4 dicembre. Quindi abbiamo la data, si vota, c'è stata un po' anche di polemica sulla, ma questa è di settimana scorsa, sulla questione di come verrà scritto il quesito referendario, perché qualcuno dice troppo semplificato, non c'è la domanda vera, quella con i veri articoli di legge, ma insomma tant'è. Invece ieri l'altro sera c'è stato l'atteso faccia a faccia in televisione. Tra Matteo Renzi e Zagrebelsky. Certo, l'ex presidente costituzionale, il premier, hanno dibattuto. Zagrebelsky, presidente dei comitati per il no, Renzi ovviamente è per il sì. È per il sì, ci sembra di aver capito che sia per il sì. Sentiamo un passaggio, un battibecco tra i due. A me questa non sembra una democrazia, sembra la riproposizione di quella vecchia e gloriosa affermazione di Jean-Jacques Rousseau, che diceva: gli inglesi credono di essere liberi, ma lo sono una volta soltanto quando mettono la scheda nell'urna. per tutti gli anni successivi sono servi di chi li comanderà. Oggi con 5 anni si può rovinare il paese oppure salvarlo, naturalmente. Per intenderci, però posso su questo mentale, scusi, un veramente... potere che rischia di essere illimitato. Scusi professore, guardi, le ho domandato se c'è o non c'è una svolta autoritaria in questo paese, perché lei ha firmato un appello. Questo appello, a mio giudizio, è offensivo verso l'Italia. Lo dico nel rispetto degli autorevoli personaggi firmatari. Perché la svolta antidemocratica in questo mondo c'è. C'è dove si mettono in galera i magistrati, gli insegnanti, dove si incarcerano i giornalisti, non dove si tolgono un po' di poltrone al Senato. Beh, c'è di buono da dire in tutto questo che comunque 1.747.000 persone in media hanno ascoltato questo dibattito. Questo mi sembra comunque una delle parti buone, visto che si parla sempre di questo referendum e già sembra che tutti, diciamo, non se ne può più, non si parla d'altro che di referendum, però... Addirittura in alcuni momenti più di 2 milioni di persone hanno ascoltato il professore Zagrebelsky e Renzi che parlavano di Costituzione, sì. Questo mi sembra un buon dato. Sì, no, questo sì. Temo che fossero le persone che in qualche modo erano già informate, già sapevano, già tifavano, già in qualche modo erano interessate all'argomento. Ah, dici? Io pensavo tutti noi disperati che non sappiamo che cosa votare. Teoricamente doveva essere così, non sai niente, ti informi, ma insomma... Staremo a vedere. Beh, insomma, sui giornali è uscito che Renzi ha vinto, ma ha vinto non per gli argomenti, per la familiarità con col mezzo televisivo. Beh, infatti è molto interessante anche per quello, sì. Il dibattito, perché Zagrebelsky effettivamente si vede un animale televisivo contro un professore che non è un animale televisivo. Però quindi, il referendum non era sull'uso della TV, ma sui contenuti, quindi c'è tutto un discorso da fare, ma non saremo noi a farlo, anche perché non siamo in grado di aprire. Noi possiamo farlo sulla radio. Semiologi, ci vorrebbero politologi, eccetera eccetera. Va bene, Grillo sempre sul referendum. Costituzione è stata fatta negli anni 50 per un popolo che aveva la terza elementare di media, quindi i padri fondatori l'hanno fatto in un modo semplice che si potesse capire, proprio perché c'era un laureato ogni 2 milioni di abitanti. Ehi, amore mio, richiamami domani, sì. Saluta chi ci ascolta, fai ciao con le mani. Sto sotto le videocamere, butto una carta in terra. L'esercito mi fissa a Milano senza la guerra. Fra perseguitati, tecnologia e secondi fini. La scrilla lo sotto vuole che intanto faccio i filmini. Zio, ai miei tempi si faceva di tutto e di più. Questi li legano, ogni cazzata la mettono su YouTube. Io non voglio che mi dicano come, quando sapere, no. Grande fratello, non della tele, quarto potere. Fra portami via subito, risparmiano la mia idea, dubito. Non vogliono e vogliono sia stupido, fra. Vogliono il numero, io non lo do, tanto lo so che siamo almeno 3 al telefono, il triangolo no. Non so niente, la piantano no. Richiamami domani, sono stanco, sto nell'unico branco che ho. 800 24 00 24, cari ascoltatori, cerchiamo un personaggio della settimana, qualcuno che ha fatto qualcosa di inaspettato, quindi aguzzate l'ingegno e digitate il numero verde, chiamateci. Con i Club Dogo, Richiamami domani, una canzone scelta nostra Andrea Piana. Vi ricordo che tutte le musiche le ritrovate sulla playlist di ogni puntata sul sito di Radio 24, perché stiamo parlando un po' di questa fase che stiamo vivendo, una fase smartphone, una fase social. Una fase non rispondere adesso, rispondi in un altro momento, e quindi richiamami domani, perché richiamami se ti suona domani. Il telefonino mentre sei in macchina. Per esempio, buona norma sarebbe rispondere domani, perché pare che molti incidenti siano causati ormai da chi sta usando impropriamente il telefonino. Allora, una novità arriva da Torino, un'iniziativa abbastanza drastica. Sequestro del telefonino a chi provoca incidenti, ma adesso cercheremo di capire perché il sequestro del telefono non è una misura punitiva, ma è una misura per indagare. È con noi il comandante della Polizia Municipale di Torino, Alberto Gregnanini. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci spieghi lei perché avete cominciato a sequestrare il telefonino a chi provoca incidenti, cosa che in realtà probabilmente si faceva già, però per la prima volta in un procedimento a Torino è stato fatto questo sequestro per cercare di capire che cosa? Ci è stata affidata una delega da un'autorità giudiziaria di verificare un telefonino. Se nel momento in cui si è verificato l'incidente quel telefonino era era utilizzato. Quindi eccolo abbiamo proceduto partendo dai tabulati telefonici, verificando, perché abbiamo fatto un'indagine che ci ha consentito non di fare una semplice verifica sulla trasmissione della fonia, ma abbiamo potuto verificare anche l'eventuale trasmissione di dati. Qualche SMS, cosa di più, esatto. SMS, uso del tablet, uso del computer. Ormai è acclarato che l'uso del telefonino e di questi strumenti è causa di un uso scorretto. Ci tengo a dirlo, perché non vorrei passare per quello che sta demonizzando il telefonino o il tablet o il computer. Anzi, beh, no, ma insomma, l'abbiamo detto anche noi, un uso scorretto, chiaramente. Se sei al volante, l'uso corretto del telefono quando uno sta guidando, comandante, quale sarebbe? Ma sarebbe quello di non utilizzarlo. Ecco, la appunto. Cosa più. Oppure un bel auricolare. L'auricolare sicuramente attenua, anche se ormai è dimostrato che anche l'uso dell'auricolare in qualche modo può essere elemento di distrazione. Anche perché se io lo sto inserendo in quel momento lì, per esempio, mentre sto guidando... Però per quello vale tutto, perché allora anche i panini, se uno in quel momento sta infilando del salame dentro del pane e poi fa un incidente. In realtà forse un uso corretto del telefonino, per esempio, è usarlo come navigatore, però lasciandolo fermo e non tenendolo in mano. Ma l'uso è un po' il codice della strada che determina quali sono i limiti, certo. Fare, i limiti, dopodiché. Ma mi sembrava molto interessante questo fatto che, appunto, partendo dalla questione del sequestro del telefonino, che leggendo questi articoli mi sembra di aver capito che fra telefonino, fra il navigatore della macchina, fra, diciamo, tutta la tecnologia che è all'interno della macchina quando si avvera un incidente, funziona come una sorta di scatola nera dell'incidente, di modo che si possa ricostruire tutto quello che è accaduto. È così? Vero. Può ricostruire tutto ciò che è accaduto. Tenga conto comunque che a queste procedure si fa ricorso solo in presenza di incidenti con gravi conseguenze e danni, soprattutto alle persone. Certo. Non si può fare una cosa del genere su tutti gli incidenti che si verificano. Dobbiamo fare una piccola pausa proprio per le informazioni sul traffico stradale, comandante. Quindi se sente qualcosa l'abbiamo che non fatto va, apposta, esatto, ce lo segnali e poi cerchiamo di capire meglio come funziona questa iniziativa. Potrebbe esserci un progetto pilota che parte da Torino, il ministero potrebbe studiare anche un progetto ad hoc per estendere questa soluzione, che consiste, ora poi lei ce lo spiegherà ancora meglio, nel sequestrare il telefonino in caso di incidenti gravi e ricostruire attraverso il telefonino se c'è stato un uso improprio. In quel caso poi adesso ci dirà anche che cosa accade, quali tipi di sanzioni arrivano. Traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ehi, amore mio, richiamami domani. Sì. Saluta chi ci ascolta, fai ciao con le mani. E allora, di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. E siamo in compagnia del comandante della Polizia Municipale di Torino, Alberto Gregnanini, con il quale stiamo valutando. Ci spieghi bene in che cosa consiste questo progetto, così hanno scritto i giornali, questo progetto pilota che parte da Torino, come ci stava spiegando lei. Si sequestra il telefono in caso di incidente grave al volante e si cerca di capire se c'è stato un uso improprio, quindi che contrasti con le regole del codice della strada. Poi che cosa succede a quel punto? A quel punto, effettuata l'analisi, ci sono dei riscontri che vengono indicati in un rapporto che viene inviato all'autorità giudiziaria. Tenga conto che comunque in presenza di incidenti gravi, soprattutto in presenza di decessi, i veicoli vengono immediatamente sequestrati, posti sotto sequestro, e sui veicoli si effettua un'indagine sulla meccanica soprattutto del veicolo. Nel caso specifico, chi ha rilevato l'incidente ha individuato anche un telefonino e l'ha indicato nel rapporto, e l'autorità giudiziaria ha ritenuto che anche su quell'elemento dovessimo fare delle valutazioni. Cioè diventa in qualche modo elemento provante all'interno di un procedimento giudiziario. La tecnologia oggi offre tante opportunità. Noi alcuni anni fa, purtroppo a Torino, si è verificato un gravissimo incidente stradale e gli autori sono scappati. Di lì è iniziata un'attività molto intensa da parte dei miei colleghi. Sì. Siamo partiti nel tentativo di recuperare sempre più dalle celle, dei numeri di telefono che agganciavano la cella telefonica relativa a quell'ambito urbano dove è successo quel gravissimo incidente. E di lì siamo partiti, abbiamo individuato tutti i veicoli che erano, tutti i numeri di telefono, abbiamo comparato i numeri di telefono ai proprietari della carta di circolazione, abbiamo verificato quali potevano essere i veicoli, abbiamo eliminato tutti quelli che non potevano essere stati coinvolti nell'incidente, quindi abbiamo ristretto il campo di indagine e alla fine siamo riusciti ad individuare i responsabili. Tra l'altro non hanno questo problema i piloti di Formula 1 che stanno per partire nel Gran Premio di Malesia e lo seguiremo. Comandante, però presumo che non usino il telefonino. No, infatti usano di molto peggio, perché sono praticamente collegati con tutto il mondo. 100.000 fili, però hanno le mani libere. Senta, vero, abbiamo letto bene che questa cosa può riguardare anche i pedoni o i ciclisti coinvolti in incidenti, perché si può potrebbe. Perché anche il ciclista che sta usando il telefonino, in caso di incidente diventa con la stessa probabilità con le quali l'automobilista anche il ciclista. Certo è che le conseguenze potrebbero non essere così drammatiche, anche perché la bicicletta ha un impatto sicuramente minore rispetto a un veicolo. Beh, però se va a schiantarsi contro una macchina possa diventare comunque un progetto pilota. Io non rispondo, anzi lo auguro. Ecco, avete avuto una investitura particolare da qualche ministero? No, per ora al momento no. Noi l'abbiamo presentata questa cosa al recente convegno di Riccione, al quale era presente peraltro anche il dirigente della Polizia Stradale, il dottor Sgalla. Va bene. Questo moderato dal... Staremo a vedere, comandante. Io la ringrazio intanto. Bravo. Grazie. E comunque ci sembrava interessante, si può fare anche questo. Tutto quello che contribuisce a ridurre il numero di incidenti, il numero di vittime sulla strada va nella direzione positiva. L'uso del telefono sicuramente sta contribuendo, anche perché, dati alla mano, gli incidenti stradali che erano in diminuzione negli ultimi 15 anni, vuoi per la patente a punti, vuoi per una serie di motivi, le auto che sono costruite in maniera più sicura, la gente che sta più attenta, nel 2015 c'è stato un aumento, un piccolo aumento, e non vorrei mai che fosse per quello. 800 24 00 24, cari ascoltatori, cosa ne pensate? Vi ha convinto il comandante della Polizia Municipale di Torino? Noi siamo qua, chiamateci, e chiamateci pure per indovinare il personaggio della settimana, qualcuno che ha fatto una cosa inaspettata. Filippo da Udine, buongiorno. Buongiorno. Anche sotto la pioggia. Secondo me è la bella Ilary Blasi che ha fatto un intervento a gamba tesa su Spalletti. Bella e bella. L'intervento a gamba tesa è a gamba tesa. C'è stata, perché l'ha definito un, diciamolo Filippo per ricordare la notizia, un piccolo uomo. Piccolo uomo. Questa polemicuccia, poi Spalletti ha risposto dedicandole la canzone di Mia Martini. E lo stesso Totti ha detto: capisco mia moglie, ma Spalletti è un grande uomo. Un caso pazzesco, il triangolo delle Bermude tra l'allenatore della Roma, Totti e Ilary Blasi. I romani erano impazziti praticamente. Però siamo contenti di aver ricordato questa notizia, però, ma non era il personaggio della settimana che avevamo scelto. Grazie di aver chiamato. Grazie Filippo. È un altro il personaggio che ha fatto qualcosa di inaspettato. Vito da Brescia, per chiudere questa prima parte. Ciao Vito, buongiorno. Pronto? Eccolo qua, Vito. Prego. Tocca a te. Un minuto. Io devo solo aggiungere sul problema del telefonino in macchina. Sì. Ma perché non obblighiamo le macchine e le case automobilistiche a mettere dei viva voce in macchina, come ci sono a pagamento sulle macchine, visto e considerato che le cinture di sicurezza sono obbligatorie? Bravo, non è sbagliata questa proposta. Certo. Cinture di sicurezza. Si dovrebbe obbligare anche le case automobilistiche di attrezzare la macchina con viva voce, col comando sul volante. Vero, però il problema del telefonino, come ben sappiamo, non è solamente la voce, sono gli sms. È vero che uno può farsi mandare gli sms sullo schermo, e sul display, insomma, però comunque ti distraggono se ti arriva un sms, no, anche poi se non sul solo display. L'SMS, quindi... ma anche se sei col viva viva voce, non è che puoi stare lì in macchina e parlare dei cavoli tuoi mentre stai guidando, perché un pochino di attenzione alla strada gli devi dedicare. Però quello allora, però, allora diventa vietato parlare anche con la suocera in macchina. Però in effetti, e tu vorresti questa cosa? Io sì, soprattutto quello che hai detto tu adesso. Vito, grazie comunque per la proposta. Grazie. Viva voce obbligatorio nelle automobili, perché no? 800 24 00 24. Ci risentiamo dopo il GR. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua a 9-8 minuti di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Stiamo cercando insieme a voi un personaggio della settimana. Anzi, tocca a voi indovinarlo. Il primo indizio è che ha fatto una cosa inaspettata. E quindi... dobbiamo dare un altro indizio? No, dopo, più avanti. Un'infornata di telefonate. Giusto. Intanto un ascoltatore ci scrive: non è più un problema di viva voce, si fa di tutto, escluso parlare con lo smartphone, che era un po' quello che dicevi tu, cioè con il telefono. In effetti ormai c'è WhatsApp, SMS, Facebook, Twitter, internet molto fondamentalmente, e quindi non è solo una questione di viva voce. Però insomma, diciamo, il viva voce potrebbe aiutare, come diceva l'ascoltatore, se è installato automaticamente sulle macchine, almeno a parlare. Le altre cose non bisogna farle, punto. Che poi, come sempre, se diciamo, pescano, è una questione di educazione, perché uno può anche avere il viva voce obbligatorio, ma se entra in macchina, se tutte le volte che deve fare 5 minuti dice vabbè, ma sono solo 5 minuti, non sto a collegare il telefonino al viva voce della macchina, siamo di nuovo da capo a 12. Allora, in attesa di sentire il nostro super ospite, dopo il traffico, tra pochi minuti abbiamo il super ospite della domenica, tra pochi minuti c'è Livia che ci chiama da Pavia. Buongiorno Livia. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, non conosco il nome della persona, è l'ex proprietario della FICEP di Gazzada, che è un'azienda in provincia di Varese, che ho letto che ha donato 700.000 euro a una onlus di Varese che si chiama il Ponte del Sorriso per costruire dei mini appartamenti per i genitori dei bimbi che sono in ospedale. Ah, ma che bella notizia. È una notizia bellissima, da quanto siamo attoniti. È evidente che non sia il nostro personaggio, ma quasi ci spiace. Sì. Conosco Gazzada, anzi conosco addirittura la fermata del treno, che è Gazzada Schianno Morazzone, giusto? Bravissimo, preparatissimo. Caramba. Livia, è bella questa notizia, è molto bella. Ci manca il nome dell'imprenditore. Il nome, però, io sinceramente non lo ricordo. Ricordo il nome dell'azienda perché la conosco. E la storia mi è sembrata abbastanza clamorosa, nel senso che questo signore era... Aspetta, Ezio Colombo. Ci siamo arrivati. Come si chiama? Ezio Colombo, è giusto? Leggendo la notizia, il cognome non l'ho notato. Potrebbe essere un altro, addirittura secondo Cristian Goldoni in redazione, che mi suggerisce Renato Giuliani, imprenditore del Varesotto, morto a gennaio, a 97 anni. Beh, quindi intanto direi redazione 1, Gabardini 0, io ho sbagliato, quindi... Livia, era una bella storia, hai fatto bene a ricordarcela, anche se non era esattamente di questa settimana. Grazie per averci chiamato e continuiamo invece a cercare un personaggio della settimana che ha fatto una cosa inaspettata. Giorgio da Vicenza. Giorgio da Vicenza, c'è? Lotta insieme a noi o no? Allora, eccolo qua. Pronto. Buongiorno. Vai Giorgio, tocca a te. Allora, per me è Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, sappiamo chi è. Why, te la dico così, visto che il personaggio... Perché è un ragazzo... non è andato a scuola per sentire un suo concerto o qualcosa del genere, e lui gli ha fatto la giustificazione. È una storia vecchia di un po' di tempo fa. Ce la ricordiamo? No, l'ho letta 2-3 giorni fa. Vabbè, comunque. Sì, può darsi che sia rimbalzata, allora, forse... però è quella che diceva anche Carlo, che non è di questa settimana, perché noi siamo abbastanza fiscali. Cioè, la notizia deve essere degli ultimi 7 giorni. Perché è una bellissima notizia che valutammo qualche tempo fa. Giorgio, hai fatto bene. Ma non c'è nessun problema. Anzi, per ricordare anche questa bella storia qua, che era quella di Springsteen che firma la giustizia, che poi qualcuno ha detto non è molto educativa, eccetera, eccetera. Però, insomma, era una storia divertente. Giorgio, grazie. Ciao, ciao, buona domenica. È un altro il personaggio che cerchiamo, che ha fatto una cosa inaspettata. Tra poco daremo anche un altro indizio. Intanto Francesco da Lecce, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, prima di dare ovviamente il personaggio, volevo fare una piccola riflessione sull'uso del telefonino. Sì, prego. Ecco, fermo restando quello che ha detto la polizia, quello che hanno introdotto a Torino, che è una cosa giustissima, però è giusto spezzare secondo me una lancia a favore di quegli automobilisti corretti, cioè i pedoni, i ciclisti, ce ne sono di scorretti, attraversano la strada, le strisce, con questa, cioè, siamo diventati tutta una generazione praticamente di rincretiniti davanti a WhatsApp, a Facebook, e non si fa attenzione dove si cammina. Cioè lei dice anche i pedoni hanno questo problema del telefonino. Perché il problema qual è, per carità? Che quando accade un incidente, la prima persona giustamente da tutelare è il ciclista o il pedone, però non si va mica a sequestrare il telefonino se quel pedone in quel momento era distratto e attraversato col rosso. Questo secondo me è una cosa anche da mettere in conto. Comunque il capo dei vigili che abbiamo sentito prima ricordava ovviamente che anche per i pedoni e anche per i ciclisti c'è il problema, della distrazione. Accade un incidente e che si tutela giustamente, ripeto, prima il pedone, perché sì, è il pericolo. È semplicemente anche che di solito è quello che si fa più male, per dirla però, molto, Francesco, però è giusto che se la responsabilità invece è di un pedone o di un ciclista, sì, che venga riscontrata, ci mancherebbe altro. Il comandante dei vigili di Torino ha detto chiaramente per ora no, ma secondo loro si dovrebbe sequestrare il telefonino anche ai ciclisti e ai pedoni, perché credo che dal loro punto di vista la cosa interessante sia quello che diceva prima Carlo, cioè questa sorta di scatola nera, cioè ricostruire attraverso il dispositivo tecnologico, diciamo, che cosa è accaduto. Quindi poi se la persona che era in bicicletta stava usando il telefonino in quel momento in maniera scorretta, allora potrebbe diventare anche quello elemento all'interno del procedimento giudiziario, se stava usando il telefonino, un avvocato, soprattutto se stava usando il telefonino per dire aiuto, mi sta venendo addosso una macchina. Allora, facciamo veloce un'altra risposta al personaggio della settimana con Antonio da Firenze, poi diamo un altro indizio perché per ora stiamo annaspando. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Vai, chi è? Antonio. No, ma chi è il personaggio, Antonio? Angelina Jolie. Oh, vabbè, la notizia, se vuoi, possiamo anche darla per scontata perché credo che non ci sia un filo d'erba che non lo... la separazione da suo marito. Sì, sì. Quindi... Però anche questa è una notizia, se vogliamo, che va un po' più in là della settimana scorsa e soprattutto mi duole non dirlo. Non è quello che avevamo scelto. No, mi piace, ho capito. Grazie mille. Va bene, diamolo questo indizio. Va bene. Il secondo indizio è che è sceso in campo, il nostro personaggio che stiamo cercando è sceso in campo. 800 24 00 24. Ecco, noi Pier Giorgio Di Freddi, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buona domenica. Allora, Odifreddi, resti con noi perché siamo appena salutati, però dobbiamo fare la pausa sulle informazioni sul traffico. No, vi ringrazio, me ne vado. Sì. No, perché era giusto per introdurre il traffico. Esatto, lo salutiamo, poi diamo la linea al traffico e ci sentiamo domenica prossima. No, una piccola pausa e poi torniamo. Vabbè. JP Morgan Asset Management vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Marrakech, fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Lo dice anche la Diesel, che zio quest'anno è il trend. È stata dura ma non ho fatto tutto da me. La TV da una mano, la droga ha aiutato ed ora rido perfino a Colorado. Vabbè, avevamo scelto questa intro musicale che è di Marrakech, stupido, perché Odifreddi è appena uscito con il dizionario della stupidità. Insomma, c'è da rimanere sorpresi. C'è da ridere, ma c'è anche un po' da riflettere, Odifreddi. Intanto come è venuta in mente l'idea di scrivere questo dizionario? Beh, in maniera autobiografica, naturalmente. Nel senso che, però, a parte gli scherzi, girando gli occhi attorno, no? E spesso poi nella vita quotidiana ci imbattiamo in esempi di stupidità in tutti i luoghi, naturalmente, no? E a un certo punto mi è venuto in mente di metterli un po' insieme per cercare di vedere fino a che punto effettivamente questa stupidità ci stia intorno, no? Ci accompagna. Ci accompagna durante la vita quotidiana, e mi sono accorto che effettivamente ce n'è molta di più di quanto uno si potesse aspettare. Quindi effettivamente, cioè, alla fine ho scritto 300 voci circa, poi ho capito che si sarebbe bisognava fermarsi, un'intera enciclopedia. Bisognava fermarsi, perché ma 300 voci e va dalla A alla Z, o sono 300 voci dalla A alla B? È il primo volume. Solo infatti il primo volume. Ho proposto per esempio all'editore di farlo in ordine anti-alfabetico, perché poi noi, anche quello, no? Quella è semplicemente una convenzione, no? Perché dobbiamo ordinare le lettere dalla A alla Z invece di fare dalla Z alla A? Ci sono dei dizionari che vanno al contrario, che servono poi tra l'altro agli enigmisti, certo. Che ordinano le cose, no? in modo da avere le parole che finiscono tutte con la o i rimari esatto, che vanno esatto, dal fondo, rimari, eccetera. Sì. Allora, qua ci sono tantissime voci, ovviamente, essendo un dizionario è così concepito, proprio praticamente ogni voce è una pagina, una paginetta, si legge velocemente, si può sfogliare anche dalla fine all'inizio. Io mi sono segnato alcune cose, la cravatta, che ha fatto anche, è uscita anche sui giornali perché è stato fotografato con questa cravatta. Perché la cravatta è una cosa stupida? Io devo dire, sono abbastanza d'accordo, ma non sapevo di poter essere in linea con... una di quelle cose che facciamo, cioè la stupidità, sì. Naturalmente in quel caso lì abbastanza limitata, ci sono esempi più eclatanti, no? Però è una delle tante cose che noi facciamo senza pensare. La cravatta in fondo è stata introdotta ormai secoli fa perché le camicie non avevano il bottone, no? Attorno al collo, e semplicemente per tenere chiuso il colletto, no? E tra l'altro è un'usanza che arriva dall'est, no? Cravatta deriva dal croato, croat. E questa è la sua etimologia. E noi continuiamo a mettercela senza però nemmeno pensare, no, per qual motivo, no, le facciamo queste cose. E effettivamente è diventata anche un po' il simbolo, no, dell'uomo incessato, il manager, certo. No, che deve fare il politico, no, e così via. Questo cappio al collo, sì, che se si porta in giro si capisce perché. Però è anche tanto comodo, perché uno mette la cravatta, a quel punto sa che tutti sono tranquilli, che uno è vestito elegante, sa la cravatta. Infatti Carlo la usa tutti solo i giorni. Due o tre volte nella vita, una volta che mi sono sposato, e poi naturalmente quando ho fatto il militare, certo. Quella non poteva evitare, perché altrimenti si finiva malamente. Anch'io l'ho messa pochissime volte, infatti sono molto felice di questo dizionario della stupidità, perché mi sono fotocopiato la pagina sulla cravatta e ormai la uso come scusa, perché dal giorno della mia cresima io combatto con mia mamma che vuole che io metta la cravatta e io non voglio, esatto, metterla. Quindi finalmente adesso ho anche un parere illustre che tengo sempre piegato nel portafogli. Allora, ci sono anche delle voci più importanti, più altisonanti: Gesù, Maometto, la borsa, la guerra. Però ci sono anche tante cose che riguardano, io mi sono reso conto sfogliando il libro proprio anche questa mattina, anche molto l'attualità, cose che intrecciano per esempio anche il programma. Noi abbiamo appena finito di parlare col comandante dei Vigili Urbani di Torino, tra l'altro, sulla questione dell'utilizzo del telefonino in macchina, no? E una voce, Odi Freddi, la dedica, più di una, anche alle nuove tecnologie, anche a Facebook, che può essere vista anche come una cosa stupida. Ma le tecnologie sono sempre armi a doppio taglio, sono cose utili, soprattutto quando nascono, e poi si finisce un po' invece di usarne, di abusarne e anche di esserne usati in realtà. Oggi Facebook è diventata veramente, no, quasi una nuova religione, ha 1,5 miliardi di follower. 1,7 miliardi mi sembra, così. I dati di stamattina, esatto. Continuano a salire, no, e così via. E molti non si rendono conto, tra l'altro, che quello è un enorme business, soprattutto per Zuckerberg e i suoi amici, i suoi followers, nel senso di soci. E certo che si viene ovviamente anche lì usati, e poi soprattutto si perde un sacco di tempo per fare delle stupidaggini. Twitter, in questo caso, ad esempio, è proprio l'esempio tipico. Credo che siano 500 milioni di tweet che ogni giorno, vengono scaricati nella rete, e la maggior parte di questi tweet non dice assolutamente niente, oppure ripete semplicemente cose che sono state dette da altri e così via. Sono uno dei colpevoli, ammetto, perché io anche molti colpevoli, perché naturalmente poi se ce ne sono 500 milioni è chiaro, esatto, che la probabilità di trovarne anche attorno a noi o di essere noi stessi coinvolti è tanta. Però per esempio nel caso di Twitter, sì, poiché ci sono 140 caratteri, uno pensa a scrivere ad esempio, no, con quelle stupide abbreviazioni, no, scrivere perché con la X, la E, no, eccetera, per metterci tutto dentro, ma non ci si rende conto che 140 caratteri sono più lunghi per esempio di qualunque terzina di Dante. Si potrebbe scrivere, no, un bellissimo tweet in rima, per esempio, no, con qualche pensiero profondo, e invece spesso io mi accorgo, perché poi che non è facile, metto quelli che riguardano meno, che vengono scritti con l'hashtag e odifredi, io non partecipo direttamente, no, appunto a tweet, e mi accorgo di quante sciocchezze, spesso di cose vuote, se no, se poi non sciocche, no, vengono scaricate. Cioè in realtà i nuovi media spesso ci istigano a perdere molto tempo, forse bisognerebbe usarli in maniera un po' più sensata. Condivido, spezzo una lancia nei confronti dei social network, nel senso che giustamente non è un problema del mezzo. Lei ha ragionissimo, no, dicendo che in 140 caratteri ci sta anche una terzina, e che la maggior parte delle persone invece scrive delle boiate colossali, che è un po' lo stesso, è la stessa questione di dire i libri, non è che i libri siano brutti o pericolosi, però anche Hitler ha scritto un libro, anche Scilipoti scrive libri, non è un buon motivo per vietare i libri per tutti, direi. Ma infatti sui libri ho fatto anche lì una voce, in Italia naturalmente la situazione sui libri è tragica, esatto, quindi forse non bisognerebbe sparare sulla Croce Rossa, cioè il fatto è che sappiamo che 2/3 degli italiani, 2/3, quindi 40 milioni di italiani, non leggono un libro all'anno. E però il problema è che e l'altro terzo li scrive, rimanente... appunto, no, li scrive soltanto senza leggerli. Quelli sono un po' i poeti più che gli prosatori, no, in genere, che hanno questa abitudine. Però appunto, no, il fatto che un terzo degli italiani legga dei libri, beh, poi bisogna vedere che cosa legge, perché non è che solo il fatto, in certi casi, Freddy, un oggetto sarebbe di carta, meglio non leggere, non c'è giusto. Senta, no, le faccio sentire questa voce qua, che incrocia ben due voci del suo dizionario. Iniziamo da questa idea del ponte, le piace, no? È un omaggio per gli 80 anni al cavalier Berlusconi, e questo dimostra la gentilezza d'animo del Presidente del Consiglio. Vabbè, questo Renzi da Floris e questo D'Alema da Lapsus è notevole, perché riesce a sintetizzare perfettamente il regalo per gli 80 anni. Allora, le due voci sono ovviamente le grandi opere e anche Berlusconi. Allora, neanche vogliamo sparare sulla Croce Rossa, appena compiuto tra l'altro 80 anni Berlusconi, però perché in qualche modo rientra nel suo dizionario la voce Berlusconi? Ma rientrano tutti, perché poi in realtà appunto non era una presa di posizione politica, c'è anche Renzi per esempio, no? E Grillo, no? Tanto per far vedere come questi uomini politici effettivamente spesso siano essi stessi esempi, tra l'altro da manuale spesso, di stupidità. Berlusconi per esempio con la storia della nipote di Mubarak, no? Credo che abbia raggiunto alcune delle, o i comunisti che mangiano i bambini e che li cucinavano in Cina durante la rivoluzione culturale e così via. Però il politico in generale è un po' prono, no, a dire e a fare delle stupidità, perché in realtà, poiché la stupidità è così diffusa, è anche diffusa ovviamente tra gli elettori, e quindi se uno vuole acchiappare i voti, certo deve mettersi al livello dei propri elettori, no? Spesso i politici, se non sono stupidi di natura, e in quel caso lì poi gli viene bene la cosa, ed è in parte lo devono fare. È più furbizia, esatto, è più furbizia che appunto stupidità, cioè a andare a prendersi i vantaggi della stupidità altrui. Però spesso uno si chiede se effettivamente lo siano o lo fanno, questo è vero appunto dei politici. Il famoso dilemma, esempio, uno dei dilemmi più atavici. Anche esatto, dei gesuiti per esempio, no? Lui si dice non si capisce bene, no? Appunto, mai se lo sono o se lo fanno, no? E così via. C'è il famoso detto, no? Che la verità gesuitica, no? Si chiama così in gergo, che è la capacità di mentire dicendo la verità, o viceversa, no? Di dire il vero mentendo, no? E in effetti, no, quelli sono esempi che nei secoli sono andati avanti. Adesso per esempio un altro delle voci del dizionario è appunto quella su Papa Francesco, che è pure lui un gesuita, e anche lui non si capisce bene se sia effettivamente, no, quel progressista che tutti i media descrivono, o invece semplicemente un conservatore travestito, come poi d'altra parte era senza travestimenti quando faceva il cardinale a Buenos Aires. Allora, questo mi sembra un tema molto, molto grosso e molto interessante. Tra le altre voci, soprattutto la domenica, no? Esatto, condivido. Ce n'è un'altra. Questa è abbastanza più seria. Questa, i vaccini, Di Freddi, perché sui vaccini si sta giocando una partita abbastanza proprio di stupidità di questa epoca, in qualche modo. Ma soprattutto, anche tra l'altro, abbiamo appena parlato dei politici, anche del Parlamento, perché in realtà proprio l'altro giorno, no, c'è stato questo tentativo di far vedere questo film contro i vaccini, con la solita stupida bufala del fatto che i vaccini farebbero venire l'autismo, e addirittura questo film è stato presentato, poi ritirato per fortuna, no, in Senato da un senatore ex grillino che adesso è passato un altro gruppo parlamentare, no, e così via. E però qui si sta veramente giocando col fuoco. Perché è vero che i vaccini funzionano in maniera tale che anche se non tutta la popolazione è vaccinata, sì, per esempio il 90% circa sono vaccinati, il rimanente 10% poi in realtà viene coperto automaticamente, cioè la malattia contro la quale ci si vaccina non riesce ad attecchire. Ma quando le percentuali scendono, questo in realtà malattie che sono state debellate ritornano, per esempio è successo già in Russia recentemente, credo una decina di anni fa, e così via. Quindi bisogna stare attenti con queste sciocchezze. E poi tra l'altro questa bufala dell'autismo, il medico che l'ha diffusa, che l'ha diffusa, è stato addirittura radiato dall'ordine dei medici, perché poi si era capito che l'aveva fatto semplicemente per interesse privato, diciamo, no? Alcune ditte, no, che avevano un interesse farmaceutico in questo campo, no, l'avevano finanziato, ed è proprio lui che ha fatto questo film che poi appunto è addirittura finito nel nostro Parlamento. E siamo un po' preda noi dei ciarlatani, soprattutto in queste cose, per esempio nella questione Vannoni, che recentemente, negli ultimi anni, no, è scoppiato in Italia, di questo psicologo che pretendeva di curare il cancro, ovviamente, no, con delle cure staminali, appunto, sostanzialmente inesistenti. Per esempio il Parlamento è stato coinvolto completamente all'unanimità, perché i finanziamenti a Vannoni erano stati dati dalla Camera con un voto in cui solo 5 persone avevano votato contro. E tutti gli altri 600 non avevano votato a favore. Poi ci si è accorti, per fortuna, velocemente. Adesso, tra l'altro, in Senato, ad esempio, c'è la senatrice Cattaneo che giustamente tiene d'occhio, no, un po' la situazione. Però veramente siamo un'epoca, se non antiscientifica, perlomeno di grande ignoranza scientifica, e si finisce poi appunto di seguire questi ciarlatani. Sì, no, io dico soltanto questo agli ascoltatori che ci sentono, complottisti, di quelli che dicono, che in qualche modo forse sostengono questa tesi. Non è che lo diciamo noi, non è che lo dice Di Freddi, che non c'è un legame tra il vaccino e l'autismo. Non lo dice in positivo nessuna ricerca scientifica al mondo. E questo è il punto fondamentale. Cioè non c'è nessun scienziato che possa alzarsi e dire questo. Quella fatta da chi invece diceva il contrario. No? Quindi, esatto. Insomma, l'avrete capito, questo dizionario della stupidità in realtà non è un dizionario di cose stupide, è un dizionario di cose della nostra vita che in un certo senso possono diventare stupide qualora si utilizzino e ci si approcci in maniera sbagliata. Una cosa che mi ha colpito è, in un'intervista in realtà, lei parlava del referendum costituzionale, che non è nel dizionario, però lei l'ha definito una cosa stupida in sé, anche questa. Ma il referendum è lì, cioè naturalmente l'argomento... O era una presa di posizione. Però... anzitutto mi sembra che il cambiamento della Costituzione, che era stata fatta da un'assemblea costituente con un lavoro di 2 anni, l'assemblea costituente era stata eletta in maniera proporzionale, fatta oggi da un Parlamento che è stato eletto con una legge incostituzionale, questo l'ha stabilito la Corte Costituzionale, con un governo di un Presidente del Consiglio che anche lui non è stato eletto ma è stato cooptato dal Presidente della Repubblica, e poi fatta in questa maniera così raffazzonata. Per esempio si dice in uno dei quesiti del referendum, ormai sono ufficiali, non si dice volete voi l'abbassamento dei costi della politica, ma chi sarebbe contrario a questa roba? Ma forse che non si sarebbe ottenuti costi molto più abbattuti tutti, diciamo così, no? Semplicemente dimezzando la Camera e il Senato. Invece la Camera, dove il Presidente del Consiglio ha la maggioranza, no, è stata mantenuta con i suoi 600 e rotti membri, e invece il Senato è stato poi abbassato, no, di 200 membri, mentre se si fossero dimezzati, appunto, no, i parlamentari, no, si sarebbe fatto un risparmio più del doppio, no? Anche lì sono piccole cose, ma poi si è visto l'altra sera, per esempio, nel dibattito tra Zagrebelsky e Renzi, che l'approccio di Renzi è ovviamente un approccio suo, il tentativo è quello di costruirsi un sistema in cui lui e il suo partito effettivamente non riescono a prendere la maggioranza. Però non è così che si fanno le riforme, si dovrebbero fare per il bene del paese, non per l'interesse proprio del proprio partito. Sì, diciamo, quindi, Renzi, credo che Renzi molto male. Le risponderebbe che è vero che si poteva ridurre il numero di parlamentari in tanti altri modi, però in questi ultimi 70 anni comunque non l'ha fatto nessuno, e lui l'ha fatto in questa maniera, che forse non è la maniera giusta, però intanto l'ha fatto. Sì, sì, sì, l'ha fatto, però con un colpo di mano, come dicono, cioè il PD, certo, ha preso nel 2013 il 29% dei voti, 29% dei voti, con una legge maggioritaria come quella che abbiamo in Italia, ha la maggioranza assoluta alla Camera e quasi la maggioranza al Senato, no? E effettivamente, no, questo non mi sembra molto democratico. Infatti la democrazia, ci sono parecchie voci nel dizionario dedicate a questo problema, no? Che cosa a questo problema democrazia? Della democrazia. Sì, perché tutti ne parlano, no? Poi però alla fine, quando si tratta di metterla in pratica, si capisce che praticamente nessuno si interessa della democrazia. Le leggi maggioritarie sono esattamente questo. Una volta la democrazia, quando è nata, diciamo così, no, qualche secolo fa, dopo la rivoluzione francese e dopo la rivoluzione americana, veniva criticata in maniera estremista, dicendo: beh sì, però la democrazia è la dittatura della maggioranza, un partito prende la maggioranza dei voti e poi impone alla rimanente minoranza di fare quello che vuole lui. Ma ormai, in un momento storico in cui a votare ci va metà della popolazione circa ormai, in cui le leggi maggioritarie permettono appunto a chi prende la maggioranza di quelli che votano, cioè circa 25%, no, di avere la maggioranza invece dei seggi, si fa sì che alla fine diventi una dittatura della minoranza, e allora quella diventa semplicemente una dittatura, no? E il maggioritario ci è stato presentato anche lì una ventina di anni fa, quando c'era Mariotto Segni, no? Questi referendum come la panacea, ma si è confuso la governabilità, e infatti Renzi continua a sottolineare questo fatto, che l'Italicum ad esempio è un tentativo, no, di introdurre la governabilità, sì, però anche se quando se la governabilità diventa antidemocratica. Le ultime notizie sui giornali di oggi dicono che forse ha fatto un altro colpo di mano. Esatto, si cambia anche sull'Italicum. Comunque, insomma, possiamo anche spezzare anche una lancia a favore della stupidità. A un certo punto, tutte queste cose che sono nel dizionario non è che sono tutte cose che andrebbero eliminate. La stupidità ogni tanto assolutamente è anche... no, certo. Ma poi soprattutto c'è anche un aspetto positivo della stupidità. Spesso sì, lo stupido è appunto colui che va controcorrente, perché si rifiuta, no, di dire le cose che tutti si aspettano. Tutti vorrebbero che e ci fa ridere, ci fa ridere, e ridere ci fa bene. Certo. Quindi alcune cose teniamocele, altre no. E lì sta la scelta di ognuno di noi. Grazie, Odi Freddi. Grazie, buona voi, domenica. Buona grazie domenica. Mille. Anche a voi. Il dizionario della stupidità, fenomenologia del non senso della vita. Interessante, divertente. 800 24 00 24. Ci fermiamo per una brevissima pausa. Torniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Se non se la sento, come mi pare di capire, di fare le Olimpiadi, l'ho già detto, e vedo che c'è un consenso crescente non solo tra i cittadini ma anche tra gli amministratori del sud, cioè Napoli e il Mezzogiorno sono pronti a realizzare le Olimpiadi del 2028 con le mani pulite, sapendolo fare con organizzazione efficiente. Chissà se Odi Freddi avrebbe inserito questa candidatura di Napoli alle Olimpiadi tra le cose stupide o no? Beh, si candidano per il 2028. Sì. dice: visto che Roma si fa da parte, allora ci facciamo avanti noi. Napoli, che tra l'altro ospiterà le Universiadi nei uno dei prossimi due o tre anni, non ricordo esattamente quando. Allora, 800 24 00 24, abbiamo un personaggio da indovinare, eh? Francesca D'Alissone, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccola qua. Eccomi qua. Chi è? Allora, io ho pensato a Tom Hanks, che si è fatto fare dei selfie a Central Park con questi sposi che sono rimasti basiti da questa cosa. Non so, va bene? No, come risposta va benissimo. La risposta va benissimo. Tom Hanks ha fatto una cosa inaspettata in mezzo al parco, sì. Ha fermato una coppia di sposi e poi si sono fatti insieme dei selfie ovviamente questa foto ha fatto il giro del mondo, ma non è personaggio che avevamo era un'altra scelto. Grazie però di aver chiamato. Vladimir da Brindisi, buongiorno, andiamo veloci, vai con questo giro. Buongiorno. Di telefonate, vai. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, ho pensato in questa settimana, ho letto che Flavio Insigne non si sposa più. Non... sta chiedendo a noi? È una domanda? No, l'ho letto, quindi dico la risposta esatta. È vero, erano già uscite le partecipazioni più di Flavio Insigne, sì, dovevano sposarsi, quindi entro sei mesi, invece pare che tutto sia annullato. Ma è stato lui? Non si sa. La notizia per il momento è così, pare che il matrimonio non... Salti. Esatto, ma non ci sono ancora conferme. È già successo in passato, mi ricordo anche con altri VIP, forse Claudia Pandolfi. Forse vuole rimanere uno scapolo d'oro della televisione italiana. Comunque non era lui il personaggio, ma grazie di aver chiamato. Questa era molto inaspettata come cosa, in effetti. Sì. Però non siamo su questo genere di situazioni. Enrico da Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Per me è Donald Trump. Lui di cose inaspettate ne fa praticamente ogni... Da 50 anni ne fa. Ogni momento, sì, esatto, da sempre. Donald Trump... Quale sarebbe la notizia di questa settimana? Sì? Aveva denunciato delle perdite miliardarie sullo sconto delle tasse e in realtà non le ha pagate per tanti anni. Quindi, si trova un po' nelle peste. Enrico, la sentiamo non benissimo. Comunque non era Trump il personaggio a cui avevamo pensato. Da un certo punto di vista sarebbe stato forse un personaggio planetario in questo momento un po' facile. Però già che ci siamo, le dedichiamo questo duro attacco che avevamo preparato tra le voci della settimana di Michelle Obama, che insomma, tra tutte le critiche che sono state fatte ad Obama, forse è... buonanotte. A Trump, la moglie di Obama, forse è quella più pesante, perché sostanzialmente l'ha accusato di essere un bambino. E senza nominarlo, bene, se non sbaglio. Detta bene, sentiamola. Because when making life or death, war or peace decisions, a president just can't pop off or lash out irrationally. No, we need an adult in the White House. Abbiamo bisogno di un adulto alla Casa Bianca. Acordate moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Senti che bella musica latinoamericana, siamo entrati in questo clima qua, è con noi Mary Villalobos, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Inizio con questa musica che mette buona energia e buon umore. Abbiamo scelto bene, ti piace questo Carlos Vives? È fantastico, è un eroe nazionale, è come il vostro Pavarotti. Ecco qua. Allora, Mary è corrispondente in Italia per RCN e NTN 24, sono due televisioni, credo, pubbliche, vero? Della Colombia. Con lei vogliamo parlare di questa notizia importantissima, la storica pace che è stata firmata questa settimana tra il governo e le FARC, il leader delle FARC Rodrigo Londoño Echeverri e il presidente colombiano Juan Manuel Santos. Tra l'altro hanno firmato con una, tanto per dire del clima in cui si firma questa storica pace, con una penna fabbricata con una pallottola. È così? Sì, esattamente, perché questo è un po' l'immagine di questo storico accordo, che invece le pallottole adesso le penne servono per firmare gli accordi, per firmare il futuro del paese. Esatto, è una cosa, è un momento importantissimo, anche se naturalmente insomma, noi facciamo tutti gli scongiuri, però sono talmente tanti anni che si aspettava questa pace che c'è anche qualcuno che non è d'accordo, vero Mary? Cioè, spiegaci sì, un po'. C'è una radicalizzazione molto polarizzato, quindi il paese è diviso in due. E oggi che è il giorno del plebiscito, nel quale più di 34 milioni di colombiani devono decidere se vogliono rimanere nel passato, cioè nella guerra, o prendere in mano il futuro. Ecco, però, perché questo è il punto, no? Che ci spiegavi prima, anche quando ci siamo sentiti prima di fare questa intervista, perché è chiaro che dopo una lunga guerriglia come quella che c'è stata in Colombia, una lunga lotta con tante vittime, ci sono degli strascichi, quindi per firmare una pace bisogna fare un passo indietro, fermarsi, non si può rimanere nella logica della vendetta, altrimenti non si fa mai la pace, giusto? No, infatti per capire l'importanza, la svolta storica, dobbiamo ricordare che questo conflitto armato, il più antico dell'America Latina, ha prodotto 8 milioni di vittime, più di 250 mila morti, più di 7 milioni di rifugiati, dei quali il 13% di bambini sono anche delle vittime di questa macabro, diciamo, questo conflitto micidiale. È una cosa pazzesca. Che, diciamo, oggi si decide per il sì, sarà una guerra in meno nel pianeta. Certo. Ma nel senso che sono i cittadini che sono, ai quali viene chiesto attraverso un referendum se intendono fare la pace con le FARC o meno, è così? No, l'accordo è stato firmato una settimana fa, sì, il 26 settembre. Con la penna pallottola. Un accordo, però il presidente, per legittimare questa intesa di pace, ha voluto anche sottoporla a un referendum. No, è obbligato costituzionalmente a questa convocazione. Sì. Ha voluto legittimare attraverso faccio un popolare. Faccio un paragone, è un po' come la Brexit, cioè, i vertici, il Premier Cameron inglese volle all'epoca sottoporre al referendum questa decisione dell'uscita dalla Gran Bretagna, che poteva non essere anche non sottoposta in qualche modo, però per avere l'avallo popolare. A lui è andata male, nel senso che Premier Cameron voleva rimanere in Europa, invece lì c'è stata una sconfitta. No, qua ci auguriamo proprio così, che... anche per noi andrà male se votano no, perché allora se vince il sì l'accordo segnato a Cuba verrà legittimato. Certo. Il presidente può inserirlo sulla Costituzione e i sondaggi dicono che c'è non lo può mandare indietro. I sondaggi dicono che c'è un leggero vantaggio a favore del sì. Sì, i sondaggi dicono questo, però sempre ci saranno delle sorprese, perché diciamo la estrema destra ha fatto una campagna molto efficace, molto facilista, e pensano diffuso l'idea che è più facile fare la guerra che la pace. Senti, è vero che un punto importante di questo accordo prevede anche la redistribuzione della terra, che è una delle questioni storiche, annose dell'America Latina, e sappiamo anche della povertà in cui vivono molte persone, quindi diciamo questa riforma della terra potrebbe essere un punto importante di questa pace. Questo è un punto chiave, perché appunto questa guerriglia è nata per la mancanza di equilibri sociali, per la mancanza diciamo della distribuzione equa della ricchezza, e durante questa guerra, questi 52 anni, tanti contadini sono stati espropriati, non lo so se così si dice in italiano, delle loro terre. E comunque l'accordo, il punto importante, è che c'è una riforma agraria, che è una riforma strutturale nella redistribuzione della terra, che è parte fondamentale della ricchezza, e che permetterebbe ai contadini reiniziare una nuova vita, diciamo, certo, con più dignità. Senti Mary, tu sei in Italia in questo momento, hai potuto votare al referendum? È possibile anche per chi sta adesso? Guarda, io sto qui precisamente nel consulato dalla Colombia. In Italia si possono votare il consulato generale benissimo, di Milano, c'è un punto di votazione anche a Genova. Io sto qua e devo dire che ci sono è stata un'affluenza abbastanza importante fino Bene. Adesso, perché le urne, diciamo così, si sono aperte alle 8 del mattino, praticamente un 4% delle persone che possono votare in Italia si sono recati già alle sì. urne, e c'è un clima di ottimismo, come la musica che voi avete iniziato. Siamo contenti di essere entrati nello spirito giusto. Grazie Mary. Andate a votare se siete colombiani. Andate nei punti dove è possibile votare, fatelo. E la parola pace è una parola bellissima, speriamo che possa tornare a splendere sul cielo della Colombia. Traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Allora, abbiamo Katia che ci chiama da Milano. Buongiorno Katia. Buongiorno. Buongiorno. Eccola allora, qua. Per me Nadal. Il personaggio? Sì, il personaggio. Per quale motivo? Perché ha interrotto la sua partita, perché ha sentito una mamma disperata che non trovava più la sua bambina a fare pubblico. E quindi ha fatto qualcosa di inaspettato, ed sì. era anche sceso in campo. Sì. Ed era lui. Ed è la storia che ci è piaciuta moltissimo. Nadal sceso in campo mentre stava giocando a tennis, ha sentito una mamma che aveva perso la propria figlia, quindi ha interrotto la partita per permettere che la mamma ritrovasse. E normalmente i tennisti sono concentratissimi, se ne fregano di tutto quello che succede, chiedono silenzio di solito. Invece questa volta ha detto no, fermi tutti, è più importante che si ritrovi la mamma. È un piccolo gesto, si può fare, però ci era piaciuto e quindi l'avevamo in qualche modo sposato. Katia, ti porti a casa i biglietti per la mostra di Escher, la bellissima mostra di Escher organizzata dal gruppo 24 ore, tra l'altro, al Palazzo Reale di Milano. Complimenti, ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. E buona domenica, e buona domenica. Adesso voglio dare un altro piccolo appuntamento, che è questo: c'è tempo fino al 4 ottobre per candidarsi, donne all'ascolto, al premio Gamma Donna, promosso dall'omonima associazione in occasione dell'ottavo forum nazionale dell'imprenditoria femminile e giovanile, dal titolo Open Your Mind, Open Your Business, sul filo della Open Innovation, e abbiamo detto Open già tre volte, però insomma. Si terrà a Milano il 10 novembre presso la sede del gruppo 24 ore. Allora, per ogni donna imprenditrice, facciamo così, dovrebbe esserci un uomo casalingo. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go go go. È un po' questo il senso dell'iniziativa che viene da Trento, perché sono in fase di organizzazione corsi di economia domestica per uomini. Bellissimo, uomini. Voglio iscrivermi. Fatevi avanti, è con noi Alessandro Vaccari delle Acli Trentine, buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuto Alessandro, non abbiamo molto tempo. Trento comunque è una terra che ci porta sempre tante storie interessanti e noi siamo pronti a raccoglierle. In due minuti, perché poi davvero dobbiamo chiudere. Raccontaci questo corso stupendo. Questo corso, ci sono varie cose. Ma sì, noi abbiamo pensato di organizzare questo corso insieme al comune di Trento e al comune di Aldino. E è un corso che ragiona sul tema dell'economia domestica per uomini, insomma, no? In virtù del discorso sulle pari opportunità. Che per soli uomini, però, cioè non è che se viene una donna la prendete, volete soltanto uomini. È un po' per soli uomini, perché in realtà all'interno del corso trattiamo dei temi che come dire classicamente di cui classicamente si occupano le donne in casa, e quindi raccontiamo il come prendersi cura della casa, il come curare, rammendare gli indumenti, questo è stupendo, insomma. Io voglio iscrivermi alla lezione 4, curare e rammendare gli indumenti, la 5 è far conto in casa, la 3 è la cucina, 2 come dicevi tu è prendersi cura della casa. La domanda è: come mai la lezione 6, che è la cassetta degli attrezzi e piccole manutenzioni, non si invitano anche le donne? Qua c'è, ci dovrebbe essere lo scambio. Su questo stiamo riflettendo se aprirla appositamente per le donne, anche se bisogna dire che in realtà tratteremo di piccoli interventi che magari un tempo si sapevano fare in casa, invece in realtà in questo momento qua tanti uomini hanno anche perso la manualità, quelle cose presente. Di cui tipicamente si sono sempre occupati. Quindi Alessandro, volete un casalingo che sia un po' anche factotum, che sia anche un po' idraulico, sia un po' elettricista, che sappia almeno mettere in quadro, diverse piccole cose. Complimenti, perché ci stupite spesso. Grazie Alessandro. Grazie mille. Delle Acle di Trento, corsi di economia domestica, ci sarebbe in effetti da imparare. Ma io sarei felicissimo di imparare a rammendare, veramente è una delle cose che più invidio a mia mamma. Un ringraziamento ad Andrea Piana, a Claudia Schiattone, che invece oggi non c'era perché era il matrimonio di Marco Lombardo, il nostro redattore, facciamo gli auguri. C'era Cristian Goldoni, c'era Carmelo Lucella in regia. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizi e da Cano Gabardini, e ciao anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.